Borse in disfatta. Venerdì. Sì, venerdì. Devo dire che ci sono anche delle piccole gioie in questo rientro all'asilo Drago, e una di queste è l'avvento del venerdì. Beh, dura poco, perché poi c'è l'avvento del sabato e della domenica, e poi l'avvento di un nuovo lunedì, e poi si ricomincia da capo tra avventi e avventi fino alla morte. Credo asilo. A Bologna dal 1 settembre i bambini viaggiano gratis sui mezzi pubblici. Evviva. A Milano sempre dal 1 settembre i biglietti della corsa singola sono aumentati da 1 euro a 1,50 euro. Ma perché parli come la Pellegrini? Vabbè, perché? E i bambini? I bambini pagano. A Milano, vabbè, allora i bambini, cari bambini milanesi, vi conviene trasferirvi a Bologna solo però se siete nati tra il 2001 e il 2007, perché se siete del 2000 dovete pagare normalmente. Sì, però non è giusto, potevamo far cifra tonda, no? 2000 cifra tonda. Ah no, aspetta, no, mia figlia è del dicembre 99. Vabbè, si può chiudere un occhio. Ma magari l'hanno fatta la cifra tonda, perché se noti si viaggia fino a 10 anni gratis, no? Se ne hai 11 paghi, quindi 10 anni cifra tonda. Sì, quindi... però anche a Milano hanno fatto cifra tonda. Sì. 1,50 cifra tonda. Sì, no? Ma come sarebbe 1,50 cifra tonda? Dai, 1,50 è una frazione. Tu non sai niente di matematica, sulle frazioni, non so che non so niente, però scusa, io so che 1,50 è una frazione. Oltretutto, allora, ci vogliono comunque due monetine, quindi potevano benissimo fare 1,20. Vabbè, ma no? Se tu hai il potere di aumentare il prezzo di una merce che rende milioni e milioni di euro all'anno, puoi scegliere tra aumentarlo del 20 o del 50% senza che nessuno possa dirti niente. Quindi? Pensa anche, scusa, che sei stato eletto da meno di 6 mesi, hai ancora davanti a te quasi 5 anni di governo della città, cosa fai? Aumenti del 20 o aumenti del 50? Boh, non lo so. Io farei addirittura cifra tonda, aumenterei del 100%, 2 euro e tutti tranquilli. Beh, sì, tutti raddoppio tranquilli, delle entrate, dimezzamento della popolarità, però ho ancora 5 anni davanti per farmi perdonare e poi tanto mi pagano la pensione lo stesso. Chiedo asilo. E ora, bambini? Bambino Alberto, ricreazione. Cosa ti è successo? No, sono stato in piscina. Ma ti hanno picchiato? Cosa hai fatto? Sei tuffato, era vuota. Ma no, ho avuto un piccolo incidente, ma niente di che. Vabbè, piscina, piscina comunale? È piscina comunale, la piscina Ponzio. Ponzio. La piscina del ventennio, Ah sì, cioè? Cos'è? È costruita con tutti i lastroni di cemento. Ventennio, sì. Vabbè. Dove ci si sdraia? È austera, pulita, austera. Italica. Vabbè, cosa gli prende? Non so, ho piscine, capito, vabbè, 150 comunque, anni, forse quello. Picchiato, vedi, con l'occhio nero. Come è andata in piscina? Ti sei divertito? Non l'ho fatto in tempo. Perché? E perché dopo 10 minuti che siamo entrati, sì, qualcuno deve avere defecato nell'acqua della piscina. Allora il bagnino, che si è fatto prendere da una crisi di nervi anche eccessiva, secondo me, ha cominciato a dire: tutti fuori, tutti fuori! Ah, poverino. Quindi è entrato in acqua con una retina. Lui si è tuffato. A maglie strette? Si è tuffato, sì. Come? E si è tuffato. Per forza, era in mezzo. Con la retina a pescare. Ha pescato uno stomaco, come si dice? Sì, abbiamo capito. Sì. Un escremento umano. Bravo. In questo caso di forma cilindrica. Vabbè, perché cos'è? Parla. Ti hanno interrogato, poi la questura stai facendo. Ma no, ma che questura? Che poi io, chi è stato alla fine, non si sa. Si dice forse un bambino. Certo, io non credo che un adulto possa fare una cosa del genere. A me l'ipotesi del bambino sembra la più accreditata. Diciamo, tra di noi. Senza che voi lo diciate anche agli altri. Secondo me è stato Gildo, Ma come Gildo? Ma Gildo non esiste. Adesso non è il tuo amico immaginario, Gildo. Non esiste. Allora, mettiamo che fino adesso avete ragione voi. Non esiste, non avete le prove. Ma oggi, che c'è la prova provata, cioè gli escrementi, adesso mi fate anche dire delle cose, gli escrementi di Gildo nella retina del bagnino, tu dici, vabbè. E mi fai il ris, chi è Gildo? Sì, è amici, è lui. Quindi lui, poverino, non è che poi bisogna fare niente di che, però... Cioè, fanno l'esame del DNA dell'escremento. E quindi, vabbè. Ma... alla fine Gildo ha defecato in una piscina pubblica, questo è quello che volevi dire. Gildo... Sì, allora, questa è la versione, è la vera versione. Però c'è stato poi un cocopro. Una situazione un po' imbarazzante, no? Diciamo un'incomprensione. Sì. Visto che io, nel frattempo, al momento del fatto, io mi trovo in piscina e stavo nuotando. Voi mi insegnate, quando c'è un escremento umano di forma cilindrica in acqua, in piscina, ti segui, ti avvicini, perché tu fai onde nuotando, e nuotavo, questo oggetto stava vicino a me. Organico. Quindi qualcuno ha presunto che potessi essere stato io. Certo, è stato Gildo, quindi. Quindi inizialmente si sposta questa voce. Quindi mio padre, figuratevi. Mio figlio che cagano in piscina. Questo ha detto così lui, Nel caso di parolacciometro, mandate. E quindi mio padre, umiliato davanti a tutta la gente alla piscina, che diceva, questo, madonna che roba, però è un bambino. Mica la roba di un bambino quella lì, Quella è la roba di un orangotango. Ma c'era un orangotango che stava nuotando in piscina. È pubblica, è Ponzio. Vabbè, può anche darsi. Quindi mio padre mi ha riempito di botte. Ma scusa, quindi alla fine com'è andata? Che tu hai fatto la cacca in piscina, diciamo la verità. Allora, no, che io sono stato una delle l'ennesima vittima della mala giustizia, del dileggio, quindi anche con un bambino siamo arrivati alla macchina del fango. No, ma che macchina del fango, semmai... Macchina... A parte che non è una macchina, l'ha fatta lui. No, allora l'ha fatta Gildo. Gildo! È vero che l'hai fatta tu? No, l'hai fatta tu, no? È vero che l'hai fatta tu? Sì, l'hai fatta tu? L'hai fatta tu! Tu l'hai fatta, no? L'hai fatta tu? Tu l'hai fatta! No, l'hai fatta tu! L'hai fatta tu! L'hai fatta tu! L'ho fatta io! L'ho fatta io! L'hai fatta tu! No, l'hai fatta tu! Allora, facciamo il gioco? Cioè, tu dici il contrario di quello che dico io? Tu dici il contrario di quello che dici tu. L'ho fatta io! L'hai fatta tu! L'hai fatta tu! Ma no, l'hai fatta tu! Non è che due volte, o una volta l'ho fatta io, o una volta l'hai fatta tu, no? L'ho fatta io! L'hai fatta tu! E qui siamo a uno. Io l'ho fatta una volta, finché non rimangio. Tu l'hai fatta una volta! L'alternativa, metti che non ci sono, l'hai fatta tu. L'hai fatta tu! Tu l'hai fatta! Io l'ho già fatta! Lei sta dicendo che è una questione un po' ad asilo Mariuccia, mi pare di capire. È una questione di... Sì, insomma, non è più... Sì. Simona Ventura, durante una conferenza stampa, ha detto che da circa un anno rifletteva sul fatto che era un po' appesantita dai tre programmi Rai in contemporanea. C'era l'Isola dei Famosi, c'era quelli che il calcio e X Factor. Supplì. Cominciava a pensare che poteva fermarsi. Diceva, magari mi fermo, però di mezzo c'erano i mutui. Anzi, di mezzo c'erano... I mutui! Ma scusa, ma quanti mutui ha Simona Ventura? Non si sa, lei ha fatto la vaga, ha detto i mutui. Uno se ne immagina così una dozzina, no, di mutui. Ma guadagni miliardi, c'hai i mutui. Che conviene. Casa al mare, casa in America, casa in campagna vicino a Milano, macchinone, barca, conviene. Sì. Ma per quante cose puoi farlo un mutuo? Praticamente per tutto. Ma tutto? Tutto, il mutuo, tu fa rima. Chiedo asilo! Dai, ma è possibile, non hai ancora imparato a usare il telefonino. Ecco qui. Cos'è ecco qui? Siamo... Manda una musica. Oh, ma no, cos'è sta? No, adesso vediamo quella normale. Una musichetta, ma non c'hai gli MP3? Scaricati tutte le tue cose, no, il tuo touch phone, smartphone. Perché non si può? Perché tu sei, c'hai il dumb phone. Tu sei dumb in quanto stupido. Qui. Vai. Bella questa. Allora, vabbè. Chiedo asilo, è finita. Noi non possiamo più suonare l'ukulele per direttive. Quindi suoniamo i telefonini. I telefonini che sono modernissimi. Ecco, allora, sullo sfondo del telefonino dobbiamo raccontare questa cosa delle vostre bambinate, della nostra lavagna vuota, telefonica. Nera, quella che si può riempire con le vostre cose. Sì, ma è telefonica, perché voi dovete chiamare e nel tempo, diciamo, massimo di 15 secondi, esattamente come un... dura 140 caratteri, 160 non insomma, mi ricordo, mandati. Zitto, non comunque dico... pochi secondi, massimo 15, raccontateci, cantateci, fateci ridere con le vostre bambinate allo 02 46 52 44 95, dillo tu Drago, 02 46 52 44 95 e passate un ottimo weekend. Fai da vai.